volta un vecchio, c'era una volta il mare, poi ancora c'era un ragazzo e un po' di vita da consumare. Così mentre scendeva la sera ed il mare iniziava a scolorire, il vecchio pensò che ancora c'era un ultimo viaggio da fare. All'alba prese gli ami e la caffa e scese piano verso il mare. Il freddo entrava nelle ossa e la luna rincorreva il sole. Guardò negli occhi del ragazzo e gli disse: tu non puoi venire. Poi misero la barca nell'acqua ed il vecchio cominciò a remare. Così lentamente giunse al largo e gettò l'esca in mezzo al mare. Si guardò nello specchio d'acqua e poco a poco iniziò a sognare. Vide gli occhi azzurri del ragazzo e altro che non sapeva capire. Poi sentì un guizzo fra le mani e la lenza cominciò a tirare. Potessi almeno sapere contro cosa sto combattendo, potessi almeno vedere quale pesce c'è là in fondo, potessi almeno capire quale vento mi sta spingendo e quale riva mi aspetta alla fine di questo giro tondo. E stanotte non sognerò né tempeste né grandi amori, ma soltanto le spiagge bianche dove giocano i miei leoni. E stanotte non sognerò né le donne né le avventure, ma soltanto le spiagge bianche dove riposano le mie paure. Ma potessi almeno sapere contro cosa sto combattendo, potessi almeno sapere quale pesce c'è là in fondo, potessi almeno capire quale vento mi sta spingendo e quale riva mi aspetta alla fine di questo giro tondo.